Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il mio inglese ormai viaggiava che era una meraviglia. A luna Jennifer lanciò una proposta. Venite su da me, finiamo lì la serata. Neanche il tempo di salire al quarto piano che Sara prese il mio amico per il braccio e lo trascinò in sala, chiudendo la porta. Sono Roberto Bartali, vivo a Siena, lavoro per una famosa banca di Siena. Ho 40 anni e mi andrò a sposare tra circa 3 mesi. Io, oltre a ringraziarvi per questa serata, oltre a dirvi che sono commosso che siate qui, oltre a chiedervi queste 3 piccole cose per l'anno prossimo, un video, una foto e un racconto, non posso lasciarvi questa sera senza avervi fatto prima vedere questa piccola cosa. Questo era il finale, era proprio la fine, l'ultimo atto del live dello scorso anno, che si chiamava Io sono qui perché raccontava la mia storia, perché in un anno aveva raccontato la mia storia. Quest'anno invece siamo verso la fine, quindi l'avrete capito, ho raccontato le vostre o quelli che hanno voluto che le raccontassi e quindi che me le hanno spedite. Quest'anno però, come l'anno scorso, facciamo un evento finale, che è un evento live e che si terrà domani sera alle 9 qui nella sede di Radio 24 in via Monterosa 91 a Milano, e l'evento è sold out, è completamente esaurito. La cosa che ho già chiesto, e ringrazio quei 3 o 4 che mi hanno scritto dicendomi io ho prenotato ma non riesco a venire, quindi rimettete pure in pista i miei biglietti, chiedo ancora di farlo. Se qualcuno si è prenotato con grande anticipo e poi semplicemente la vita ha avuto ragione di lui rispetto a domani sera, magari mi mandate una mail o mi scrivete sul profilo Facebook del programma, che voi siete qui Radio 24, la mail invece è voi siete qui @radio24.it, e mi dite ops, non riesco più, se cancellate abbiamo 2 posti disponibili. Ringrazio infatti anche quelli che continuano a scrivere, mi sono mosso tardi, non c'è più posto. La risposta è no, non c'è più posto, salvo qualche avviso particolare appunto di qualcuno che si cancella, ma la vedo un po' complicata. Sono previste tante persone domani, stiamo mettendo giù un sacco di sedie, più probabilmente di quanto si dovrebbe, anche se non si deve dire, no, è tutto regolare. È probabile che magari, diciamo, visto che non sono numerati i posti, è proprio guerra, cioè il primo che arriva si prende i posti, posso dirla così? Cioè il primo che arriva si prende i posti migliori, è come al cinema anni fa, che non è che ti prenotavi il posto, arrivavi e quello che ti prendevi. Però la sala è grande e ci staremo tutti, quindi l'appuntamento è per il live di Voi siete qui domani sera alle ore 21, puntuali. In contemporanea, al live, sempre live, ma attraverso lo schermo del vostro computer, se non siete riusciti a venire, se siete troppo lontani per pigliare un treno, una macchina o un aereo, o se semplicemente non avete voglia di infilarvi in quella sala, volete rimanere a casa vostra, ma volete sentirvi 10 minuti, un'ora o tutto lo spettacolo di domani sera, dal sito di Radio 24, in live streaming, proprio dalla home page radio24.it, troverete un live streaming che, detto banalmente, è semplicemente una ripresa video di tutta la serata, quindi è come se ve lo vedeste più o meno alla televisione, dico più o meno, nel senso che, ripeto, non so quante camere ci saranno, non so se ci sarà una regia, però da lì riuscirete a vederlo. Altre cose da dire per domani? Tiziano mi dice che è stata fatta una ricerca dal marketing della radio e che l'età media, però essendo una media va presa con le pinze, delle persone presenti domani, che sono tante per una sala, non so quanto siano statisticamente valide per tutto l'ascolto di questo programma, l'età media delle persone che ci sono domani sera è di 38 anni, che è un po' l'età media di questo paese, diciamo, che sta lentamente invecchiando e sta lasciando dietro di sé solo macerie, così giusto per rendere la serata un pochettino più divertente, il pomeriggio un po' più allegro. Allora, quelli che ci sono ci vediamo domani, con gli altri ci vediamo dal sito di Radio 24 in diretta video. 349-238-6666. Ah, scusatemi, ecco un'altra cosa che volevo dire, non si può più votare il racconto, mi dispiace, abbiamo chiuso le votazioni, il cervellone della redazione, alias Margherita Ina, ha già selezionato quali saranno i 10 racconti che verranno letti domani. Noi esattamente dopo la diretta, noi 4, Margherita, tu hai tempo? No, tu hai altre 40 cose da fare, immagino, quindi io, Paolino e Tiziano Bonini scenderemo nella sala collina per la prova del live di domani. lo proviamo già da un po', questa è solo, diciamo, una sorta di prova generale. Ma basta che se ne frega con il live di, con il live di domani, veniamo alla puntata di oggi, perché la puntata di oggi parla di una cosa che è stata fatta da 270.000 italiani, su un totale di 3 milioni di persone che dal 1987 al 2012 sono partite da casa loro, dalla loro università, e sono andate in un'università dall'altra parte dell'Europa, o comunque sparsa nel continente europeo, per il progetto Erasmus. I più giovani sanno benissimo di cosa sta parlando, ma anche i meno giovani, perché se non ci sono andati loro, hanno mandato i loro figli, o magari invece sono stati tra i primi a farlo l'Erasmus, e quindi sanno di cosa si tratta. La puntata di oggi è dedicata a questa, proprio perché Roberto, che ci ha mandato la sua storia, che ha 40 anni, come dice, quasi, e si sta per sposare, quando ha pensato a un racconto che raccontasse qualcosa di lui, che è la domanda che noi facciamo sempre e che continuiamo a fare, ha pensato a un episodio legato all'Erasmus. Io non lo so esattamente perché lo abbia fatto, so però che lo ha fatto. E quindi tutti quelli che hanno partecipato a un Erasmus, che sono partiti, sono stati un anno, sei mesi, otto mesi in giro per l'Europa, hanno voglia di raccontarci il loro Erasmus, com'è andato. 349-238-6666. Voi siete qui Radio 24 su Facebook, oppure voi siete qui @radio24.it. Paola, sei mesi, Università di York, letteratura inglese, materia in cui mi sono laureata dopo essere tornata, durissima, ma uno dei periodi più belli della mia vita. Francesca, Strasburgo, Francia, Institut de Traduction, Interprétation et Relations Internationales. I francesi mettono sempre una fine. Forse solo a Parigi mi dicono. Bellissimi corsi di trattative e istituzioni europee. Divertente la vita, residence universitaire a pochi passi da Renault, eccetera, eccetera. E poi qualcuno che invece l'Erasmus non l'ha fatto e c'ha un po' la tenia nei confronti di quelli che hanno fatto l'Erasmus, e il sottoscritto tra quelli. Ma ve lo racconterò più tardi. Adesso ascoltate bene la storia di Roberto, che è molto divertente e racconta una parte della vita dello studente in Erasmus. La nostra avventura in Inghilterra sembrava cominciare come meglio non si potesse. Giunti al campus, avevamo incontrato la ragazza conosciuta mesi prima, che di fatto ci aveva convinto a scegliere Bath come sede per il nostro Erasmus. Si chiamava Crystal, simpatica, gentilissima e con un ottimo italiano. Oltre a farci fare un primo giro dell'università, ci invitò subito a una festa che si sarebbe tenuta qualche giorno dopo. «È un tipico party universitario inglese», ci disse. «Una festa cheese and wine». Gasatissimi, con una bottiglia di vino in mano e con un inglese tutt'altro che fluente, io e il mio amico Massimo ci presentammo puntuali al party. La spinta che mi ha fatto partire, beh, intanto una passione per l'Inghilterra che avevo un po' da tutta la vita, poi vabbè, il classico motivo di studio per imparare la lingua, poi affrontare un anno fuori, lontano da casa, perché l'università era a Siena, per cui facevo insomma il tragitto con lo scooter, e lì si trattava di spostarsi per quasi un anno. Il barbour che avevo fatto ingrassare prima di partire dall'Italia reggeva perfettamente la pioggerellina britannica, e anche l'appartamento della festa era British Old Style. Una casa stretta con scale ripide e scricchiolanti, ma con un bel salone in fondo al quale erano sistemati tre vassoi di formaggi tagliati a dadini e tantissime bottiglie di vino provenienti da mezzo mondo. Musica bassa, luci soffuse, Crystal che ci presentava a tutti come i suoi amici italiani. Un bicchiere di vino cileno in mano da sorseggiare, qualche pezzetto di quel formaggio inglese così giallo. La prima mezz'ora in un party targato UK trascorse una meraviglia, anche se stavamo provando sulla nostra pelle le prime classiche difficoltà linguistiche. Alle 22.15 sentimmo distintamente un «Hi, I'm from Siena». «Cavolo», ci dicemmo, «non siamo soli». Lo andammo subito a conoscere. Si chiamava Luca, era un nostro concittadino giunto lì per seguire un master. Aveva qualche anno più di noi ed era di aspetto assai curato, e il suo inglese era clamorosamente perfetto. Simpatico? Manco per idea. Ci rimase subito antipaticissimo, forse per quella sua bravura ad attaccare bottone con le ragazze, che notammo immediatamente. Tra un dadino di formaggio e l'altro, io mi accorsi che il vino cileno, sommatosi a quello australiano, stava iniziando a darmi alla testa. Massimo invece no, lui era più abituato di me a bere alcol e reggeva come una corazzata. Il tempo passava, ma il nostro sciagurato inglese ci impediva di socializzare come volevamo. Che fare? Arrenderci all'evidenza? mai. Ci guardammo io e il mio compare e concordammo il da farsi: rompere le scatole a Luca ogni qualvolta fosse riuscito ad agganciare qualche ragazza. Era da bastardi, lo ammetto, ma la tattica ebbe un successo clamoroso. Al secondo assalto da parte nostra, Luca fu letteralmente costretto a presentarci Jennifer e Sara, due ragazze gallesi carine da morire. Intanto il vino stava avendo su di noi un effetto insperato. Il mio inglese migliorava all'aumentare del tasso alcolico. Vista la nostra faccia soddisfatta, Luca ci lasciò il campo libero. Io e Massimo stavamo andando alla grande. Passarono altre due ore e il mio inglese ormai viaggiava che era una meraviglia. A luna Jennifer lanciò una proposta: venite su da me, finiamoli la serata. Massimo mi lanciò un'occhiata festante: è fatta, siamo dei grandi, mi disse. Neanche il tempo di salire al quarto piano dell'unica vera palazzina del campus che Sara prese il mio compare per il braccio e lo trascinò in sala, chiudendo la porta. Io, la mia timidezza e la splendida Jenny, invece, ci accomodammo sul suo letto, seduti. Prima di vederlo sparire, feci in tempo a dire a Massimo: «Oh, io sono fradicio, mi gira la testa da morire, spero di riuscire a non vomitare sulla moquette». La mia gallese era una favola, capelli rossi, occhi di un azzurro trasparente, alta poco meno di me, corpo armonioso. Incarnava il mio prototipo di perfezione, una roba da non credere. Parlammo altri due minuti della mafia in Italia, come fossimo arrivati al tema della mafia in Italia, io ancora me lo domando oggi. Poi lei si alzò, aprì l'armadio e tirò fuori un'altra bottiglia di vino. Io sbiancai e la stanza intanto mi girava in senso orario e antiorario, proprio come fosse a Luna Park. Le dissi: no, thanks, please, no more wine. Niente da fare. Con una maestria invidiabile stappò un rosso e mi porse un bicchiere pieno. Io simulai un sorso e sorrisi. Jenny allora posa la bottiglia sul tavolo, aprì un cassetto e ne tirò fuori delle piccole candele colorate. Le accese, le sistemò un po' ovunque e poi si sfilò il maglione a V e si sedette vicino a me, cercando nel frattempo di farmi sfilare il giacchetto. Ah sì, perché, preso dall'emozione, io non mi ero ancora svestito. Così lei mi sfilò il mio barbaro, ancora tutto bello ingrassato e impermeabile. Io lo presi e lo lanciai chissà dove, approfittando del movimento per avvicinarmi alle sue labbra. E ci baciammo. Lì per lì, quando ci parlavo, mi facevo tra me e me: cavolo, avesse due curve un po' più rotonde, sistemate giusto, sarebbe una specie di Jessica Rabbit, perché capelli lunghi, rossi, due occhi azzurri chiarissimi, era una roba davvero tipo film, e mi davo veramente i pizzicotti, ma io sto con questa qua, era veramente sì, il sogno. Durò pochi minuti e a me sembrò veramente di essere in un sogno. Aprì gli occhi, lei era splendida e poi, cavolo, baciava da Dio. Quando i primi uccellini iniziavano a cinguettare, accadde l'imponderabile. Il mio maledetto, amato e ingrassatissimo barbor era finito, nel lancio, su una delle candele. Dalla manica sinistra si levava una strana fiamma verde, alta almeno un palmo, e il sistema antincendio del palazzo si mise a suonare all'impazzata. Mi lanciai sul giacchetto, spensi l'incendio, ma niente da fare. La magia era rotta. Corremmo tutti al piano terra come da piano di evacuazione e Massimo, uscendo, mi fulminò con lo sguardo. Io invece ancora non avevo realizzato cosa fosse davvero accaduto, colpa del bacio, dell'alcol o di entrambi. Mi ritrovai in giardino, ma della mia gallese nessuna traccia. Finito l'allarme, tornai a bussare alla sua porta, senza però avere risposta. Il giorno dopo la vidi alla mensa. «Hi, Jenny!» Niente. Tiro dritto. Jennifer dates a man in a 60s cover band. He's the S-Dog, Sean, if you wish. She's 18, he's 31. She's a rich girl, he's the son of a Coca-Cola middleman. Io non ho fatto l'Erasmus e per questo motivo lo detesto. Durante l'università io facevo già altro e non avevo soprattutto né i voti né la possibilità di farlo. In più, quando facevo io l'università, circa 15 anni fa, l'Erasmus era ancora una cosa per pochi. Le domande non erano tutte accettate e i posti disponibili non erano poi così tanti. Ogni tanto qualcuno partiva, se ne stava via un anno e quando tornava aveva quell'aria di chi ha visto il mondo e la sa più lunga di te, che invece sei rimasto nel tuo putrido paesino o nella tua grigia città. La cosa che però mi faceva davvero infuriare era l'arroganza che sfoderavano quelli che erano stati in cittadine sconosciute della bassa Sassonia o in periferie suburbane di città in mezzo al nulla, perché un conto è passare un anno a Londra, a Parigi o a Madrid, ma passare 10 mesi ad Aberdeen o a Graz o a Klagenfurt forse non è proprio la cosa più eccitante del mondo. Eppure tutti quelli che tornavano da questi posti ti osservavano come se tu fossi un povero scemo incistato nella cameretta di casa dei tuoi che non conosceva le cose della vita. Avevano l'aria di quelli che erano stati al fronte, che avevano combattuto guerre di trincea e dopo di allora non erano più stati gli stessi. Già a quel tempo la mia invidia era tale da voler gettare immediatamente discredito su di loro e sulle loro esperienze. Quindi chiedevo ad esempio quanti esami avessero dato e loro nicchiavano. Chi invece mi diceva «Ma sono alla pari, come fossi stato in Italia». Subito avevo qualcosa da ridire sulla qualità dell'università in quella città. Insomma, ero un vero rompicoglioni. I racconti che facevano poi erano sempre uguali. Feste come in Italia non ne avevi mai viste. Nottate che solo là potevi fare. Ragazze talmente belle che ti sembrava di essere in una sfilata di moda o in un film. Ecco cosa. Quei mesi passati all'estero erano sempre raccontati come la trama di un magnifico film. E quando io chiedevo che cosa ci poteva essere di interessante nel passare un anno a Utrecht, dove si parla fiammingo e piove 2 giorni su 3, o a Liegi, dove l'unico evento è la partenza e l'arrivo di una classica del ciclismo, mi sentivo sempre rispondere la solita cosa. Beh, è comunque un'esperienza. E ammetto, questa era la cosa che mi faceva più imbestialire di tutte. Perché, seguitemi, però per così tanto, tutto è un'esperienza, no? Anche passare 3 mesi a Induno Olona è un'esperienza, con tutto rispetto per quelli che vivono a Induno Olona, o 2 settimane a Galliate è un'esperienza, o a Pernate, o a Romentino a casa mia. Ecco, vivere a casa mia a Romentino è un'esperienza. E io ho amato il racconto di Roberto perché ci ho trovato, ad anni di distanza, tutto quello che mi ricordavo sull'Erasmus e sui racconti dei miei amici che c'erano andati. Fortunatamente mi è passata quella forma di invidia che me lo rendeva avverso, però i dettagli su alcol e ragazze mi hanno fatto molto ridere e mi hanno spinto ad andare su internet a cercare sul sito ufficiale dell'Erasmus quelli che sulla carta sono gli obiettivi principali del programma Erasmus. E gli obiettivi sono questi qua. Sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore e rafforzare il contributo fornito al processo di innovazione dell'istruzione superiore e dell'istruzione professionale avanzata. Che poi, come si sa, sono i veri motivi per cui tutti gli studenti vogliono partire in Erasmus. Ecco, a proposito di persone che sono state in luoghi più o meno sconosciuti a fare l'Erasmus, c'è un altro esempio che poi è simile a quello di Roberto, boh, simile mica tanto, a proposito di persone che hanno conosciuto non tanto una donna quanto una Jennifer, per l'esattezza, in Erasmus, ed è il caso di un ascoltatore che è stato in Lapponia, ha conosciuto Jennifer, ci si è sposato e sono andati a vivere a Bordeaux. Al riguardo, Umberto Eco ha detto una cosa molto divertente e interessante proprio sul fatto che l'Erasmus rende più europei. Dopo magari la leggiamo, se riusciamo a trovarla. Non mi ricordo, era un'intervista credo che fosse. Vabbè, 349-238-6666. Prima di andare da Roberto, c'è un caso che è veramente eccezionale riguardo al live. Paolo: salve staff di Voi Siete Qui, io mi sono iscritto all'evento live del 19, ma ho preso io l'ultimo posto disponibile e quindi non ho fatto in tempo a prenotare anche per la mia morosa. Cioè lui ha prenotato l'ultimo, voleva prenderne 2 e ne ha trovato solo 1. Se il 19 vengo con lei, la fate entrare? C'è qualcuno che ha rinunciato? Per favore, riuscireste a dirmelo così ci regoliamo? Avevo scritto una mail, ma nessuno mi ha risposto. Paolo, ti ho risposto proprio prima di andare in onda, quindi leggi la mail. 349-238-6666. C'è qualcuno che non se l'è portata, diciamo, dall'Erasmus, la fidanzata. L'ha trovata in loco, però di fatto quello ci ha raccontato. Ed è Roberto. Pronto, Roberto? Ciao, sono qua. Come stai? Bene, grazie. Senti, a 3 mesi dal matrimonio come ci si sente? Emozionati, ma decisi, dai. ormai. È quel dai finale lì che mi lascia un po' no, spiazzato. No. Da quant'è che siete fidanzati? 9 anni, per cui insomma ci abbiamo pensato. Ci avete pensato un po', 9 anni, quindi tu hai quasi 40, mi dicevi? Sì, no, io ne ho già 40. Ne hai già 40, quindi da quanto ne avevi 31? Eh sì. Senti, è una roba in grande stile, avete preso un castello fuori Siena con wedding planner oppure una roba... Senza wedding planner, però i posti in zona oggettivamente non mancavano, per cui abbiamo preso un bel agriturismo che dà sulle colline. Sì, sì. Senti Roberto, invece dimmi, come si chiama tua futura moglie? Si chiama Antonella. Antonella la sapeva questa storia dell'Erasmus? Diciamo, fa parte del tuo repertorio narrativo oppure è una roba che hai raccontato per la prima volta? Ci mancherebbe che arrivo al matrimonio senza raccontargli una cosa del genere, no, non lo sapevo. Ah, ok, perché diciamo che a me però di tutto rimane un'immagine molto forte, che in realtà è un'immagine proprio di quell'epoca, ed è il Barbour tutto ingrassato, che riempiva le strade italiane, sui marciapiedi c'era questo odore di grasso, di non so, grasso di foca, cos'era la roba che si usava per ingrassare il Barbour? Non so perché lo portai proprio in un posto dove lo facevano, dove ingrassavano. No, credevo, non lo so perché poi ha preso fuoco e da lì ho messo solo più giacche a vento. Senti, invece Massimo, il tuo compagno di avventura, lo frequenti ancora, lo vedi ancora? Ci vediamo ogni tanto, ormai sono passati anni, era il 95, per cui insomma sono passato un bel po' di tempo, ci vediamo, sai, a Siena c'è il momento del palio in cui tutti sono in giro per la città, per cui capita che ci vediamo. Senti, invece oltre a questo episodio sull'Erasmus, visto che oggi grazie al tuo racconto ne parliamo, cosa che ti è rimasto? C'è qualcosa che ti è rimasto oltre a questo, di quel periodo? Oltre al Barbour con una toppa sulla manica sinistra, sì. No, indubbiamente sai, è una, come vi dicevi prima, è un'esperienza talmente forte che ti cambia nel bene e nel male, ti cambia la vita e me l'ha cambiata in tanti modi. Faccio un paio di esempi. Io arrivo lassù completamente ignaro di cosa fosse internet, lì erano davvero 5-6 anni avanti all'Italia, professori che rispondevano alle email. Di che anni parliamo, scusa Roberto? 95. Ah, ok. E per cui insomma, la scoperta, io ricordo una ragazza di Treviso che mi prende, guarda, conosci internet? Io, che roba è? Per cui mi aprì questo mondo, guarda, è carino, è tanto utile, serve per dire. Sì, sì, e sì, poi, chiaro, chiaro. E poi le materie di studio, pensa che io arrivo lassù, uno dei corsi a cui mi iscrivo è storia del terrorismo e degli scandali in Italia, per cui questo fatto, ho detto guarda un po', ci studiano come i topolini di laboratorio, mi colpì tantissimo. Poi questo a Bath, giusto? Sì, sì. Che si trova nel sud dell'Inghilterra, della sì, Gran Bretagna. Praticamente è sotto Bristol, quindi all'inizio della Cornovaglia, per dire, al nord. Senti Roberto, poi ti devo salutare, non c'entra nulla, tu sei già il secondo bancario senese che lavora per la banca di Siena, insomma, per la banca di Siena, ma mica tanto solo di Siena. Però leggevo l'altro giorno un amico che frequenta Siena, sta accadendo qualcosa, non va proprio tutto per il verso giusto, o sbaglio? Ho un lavoro, non parlo di parlare. Sono uno dei pochi fortunati ancora. Roberto, giusto, c'è il lavoro e soprattutto stai per mettere su famiglia, quindi se non lo tieni tu non lo tiene nessuno. Roberto, immagino che non verrai al live, ma se hai voglia di seguirtilo guardatelo da internet, dal sito di Radio 24. Volentieri. Grazie ancora, buona giornata. Grazie a te, ciao. Ciao Roberto. Io sono stato un anno in Erasmus a Lisbona e come ben sapete ancora oggi faccio una vita da studentessa Erasmus. Ci vediamo domani sera se non avrò un aereo da perdere. Però se non ti firmi, noi facciamo fatica. Ah, è Viola! Ma perdonatemi. 349-238-6666. Si parla dell'Erasmus. Ci sono alcuni che se lo sentono avversissimo l'Erasmus, come me. Tempo fa, ormai ci ho fatto la pace. Perché poi, perché te lo senti avverso l'Erasmus? Perché non l'hai fatto, banalmente. Se invece l'avessi fatto saresti qui, come Marco da Teramo che dice: caro Matteo, io ho 40 anni, ho fatto l'Erasmus a Graz nel 95. Esami dati 1, ragazze conosciute 8, dico conosciute, birre scolate a Taniche. È stata un'esperienza unica, primo mese un incubo, i 5 successivi un sogno, compresa la padrona di casa, un'ottantenne indimenticabile di nome Frau Schwarz, morta solo l'anno scorso. Non ho capito, sei rimasto in contatto Marco, vi mandavate delle mail con Frau Schwarz. Il ricordo più bello è il poliziotto austriaco che mi accompagna a casa alle 6 di mattina, ubriachi persi. Saluti a Marielle, addirittura qua saluta, indimenticabile maestra di vita e di notti salisburghesi. Marco ci è rimasto veramente sotto all'Erasmus, eh? Non ne esce più. Io non ho fatto l'Erasmus, ma mi sono fatto quelle che facevano l'Erasmus, faceva il barista e insomma... È più facile. È perché, vedi, perché tanta prosopopea per l'Erasmus? Solo un omeocone. sa, no. E vabbè, deve esserci un problema col T9. È solo un altro modo per rimediare, di tirar su qualche ragazza. E poi ancora, io ho fatto nel 2000 l'Erasmus a Madrid. Tiziano, tu hai fatto l'Erasmus a Madrid, vero? Però nel 98. Mi ha cambiato la vita. Ogni giorno era diverso e ho capito cosa significa vivere. Ho smesso di vegetare e di accettare quello che mi succedeva a casa. Ed è cambiato tutto. Sono tornato a casa. Avevo vissuto un anno e i miei amici erano ancora lì fermi sugli stessi problemi. Io diverso, nuovo, con un mare di idee. Che fare al ritorno? Tornare come prima o cambiare amici? Grazie per avermi fatto partire, mi ha cambiato la vita. Però Massimo, non ci spieghi poi cosa hai fatto dopo, cioè che cosa te ne sei fatto di questa esperienza Erasmus. E allora, visto che Massimo non lo dice, abbiamo trovato, grazie a Margherita, quell'articolo in cui Umberto Eco parla dell'Erasmus e lo definisce una delle cose più importanti addirittura per creare un'identità europea. Cioè lui dice una cosa molto più complicata, chiaramente è molto più sofisticata di quella che potrei dire io. Dice che l'identità di un popolo si crea attraverso due modi: o grazie alla cultura o grazie alla guerra. Questo più o meno detto male. E sostiene proprio questo: sostiene che l'Erasmus aiuta a creare un'identità di questo continente che praticamente ancora non ce l'ha. Ma lui lo dice meglio di me e dice così. Davanti alla crisi del debito europeo, e io parlo da persona che non capisce nulla di economia, dobbiamo ricordarci che solo la cultura, oltre la guerra, lega la nostra identità. Per secoli, francesi, italiani, tedeschi, spagnoli e inglesi si sono sparati a vista. Siamo in pace da meno di 70 anni e nessuno si ricorda più di questo capolavoro, che pensare a un conflitto Spagna-Francia o Italia-Germania oggi suscita ilarità. Gli Stati Uniti hanno avuto bisogno della guerra civile per unirsi davvero. Spero che a noi bastino cultura e mercato. L'identità europea del 2012 è sì diffusa, ma è shallow, e uso apposta la parola inglese che non è l'italiano superficiale, ma sta a metà strada tra surface, superficie, e deep, profondo. Ecco, dobbiamo radicarla prima che la crisi la rovini del tutto questa identità. Si parla poco sui giornali economici del programma di scambi universitari Erasmus, ma l'Erasmus ha creato la prima generazione di giovani europei. Io la chiamo una rivoluzione sessuale, cioè un giovane catalano incontra una ragazza fiamminga, si innamorano, si sposano e diventano europei come i loro figli. Dovrebbe essere obbligatorio, e non solo per gli studenti, anche per i taxisti, gli idraulici, i lavoratori, passare un periodo nei paesi dell'Unione Europea per integrarsi. Ecco, è per questo che dico che l'identità è shallow. I padri fondatori dell'Europa, Adenauer, De Gasperi, Monnet, potevano aver viaggiato meno. De Gasperi parlava tedesco solo perché era nato nell'impero austro-ungarico. Non disponevano del web per leggere la stampa estera. La loro Europa reagiva alla guerra. Condividevano le risorse per costruire la pace. Oggi dobbiamo lavorare all'identità profonda. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. E come dice Tiziano Bonini, questo è il primo programma crowdsourcing, qualsiasi cosa voglia dire, e lo dimostra il fatto che Valentina Rita, sul profilo Facebook di questo programma, aveva già postato, me ne sono accorto adesso durante il brano, proprio l'articolo che è preso dalla stampa, in cui Umberto Eco dice: scommetto sui giovani nati nella rivoluzione Erasmus. Addirittura una rivoluzione. C'erano i dati anche che mi aveva dato Tiziano prima, eccolo qua. Il programma è nato nell'87 e sfiorerà i 3 milioni di partecipanti entro la fine del 2012, quindi compie 25 anni e ci saranno delle manifestazioni a Copenaghen, o ci sono già state? Ci sono già state a maggio hanno festeggiato i 25 anni dell'Erasmus a Copenaghen. Non voglio immaginare i fiumi di alcol e di sostanze. E Davide invece risponde quando io dico: certo, fare l'Erasmus a Madrid o a Parigi è una cosa, fare in un paesino è un'altra. E Davide mi risponde: Matteo, ti sbagli, io 4 mesi in Svezia, paesino sconosciuto, Falun, 3 ore da Stoccolma, università giovanissima, ho imparato l'inglese, ero l'unico italiano presente, che mi è servito per le interviste in Sierra Leone per la tesi. riuscivo ad esprimermi in modo quasi fluente su tutto. Ho apprezzato un sistema universitario dove ti chiamano per nome proprio, ti fanno fare i compiti per le lezioni e ti interrogano e ti costringono a leggere un libro in inglese ogni settimana. E lui per inciso scrive: venivo dall'ITIS, 2 ore alla settimana di inglese stupido e poi a parlarne in classe, università aperta 24 ore su 24. Vabbè, questo è l'Erasmus, per chi non lo sapesse, per chi ancora non lo sapesse, per chi ancora può farlo, forse il consiglio è di andarci e di iscriversi. Invece il consiglio è di venire domani sera live alle 21. Noi adesso vi lasciamo perché andiamo giù a provare. Ringrazio Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Hina. La sera di oggi era la sera di Roberto e parlava di Erasmus. Quella di domani è di Giulietta e parla di lontananza. Una mattina d'inverno mi alzai presto, feci colazione come al solito e andai verso la fermata. Era buio, ancora notte chiusa. Non mi faceva paura. Eravamo sempre gli stessi passeggeri che andavano a lavorare, gente che conoscevo. Però quel giorno non c'era nessuno. L'autobus era completamente vuoto.